È strano, ma da qualche tempo mi capita di rivivere a intervalli sempre più brevi un episodio ricorrente, una specie di déjà vu. Incontro un amico, un conoscente, qualcuno comunque con cui sono in rapporti cordiali e con cui condividevo fino a quel momento la mancanza, se si può condividere una mancanza, di quella singolare protesi tecnologica che è il telefono cellulare. Uno spesso che con me condivideva anche il giudizio su chi del telefonino non sa fare a meno, uno che si faceva beffe dell'abitudine di portarne sempre un esemplare con sé, che la bollava come una tipica forma di dipendenza e un chiaro esempio di asservimento alle mode e alle imposizioni. E com'è, come non è, costui adesso impugna un telefonino dell'ultima generazione, mi guarda e chiaramente si vergogna un po', tanto è vero che sente il bisogno di giustificarsi, talvolta invoca uno stato di penosa necessità, nel senso che ha una vecchia mamma malata che può aver bisogno di lui da un momento all'altro, oppure sta seguendo una delicatissima pratica professionale dai cui sviluppi deve essere costantemente informato, o più spesso mi spiega che quel telefonino glielo ha regalato qualcuno e che lui se lo porta dietro solo per far piacere a costui, e non lo si può biasimare, perché di solito si tratta di un coniuge, di una fidanzata, di un fidanzato, di qualcuno comunque con cui si è in intimità e a cui non si può fare l'inutile sgarbo di respingere un dono o di mostrare di non apprezzarlo. Ma tanto mi assicura, lui quel telefonino non lo usa mai. Al massimo lo usa solo per rispondere quando lo chiama qualcun altro, e solo in casi di assoluta e provata necessità, non è come uno dei tanti poveri diavolacci dipendenti o asserviti di cui fino a ieri ci facevamo beffe insieme. Io non mi permetto mai di mettere in dubbio quello che mi raccontano, anche se vi confesso che trovo un po' strano il fatto che ci siano in giro tanti mariti, mogli, fidanzati e fidanzate e pronti a regalare al partner un oggetto di cui lui non sente il bisogno. Ma è certo che solo pochi minuti dopo avermi ammannito la giustificazione di cui, quel tale è lì che parla bello e contento con il suo telefonino, senza che per quello che ne posso capire io che la comunicazione sia dovuta a qualcuna delle necessità appena invocate. Chiacchiera come una gazza, si sposta di qua e di là alla ricerca, come mi hanno spiegato, del campo, e mi rivolge ogni tanto quella tipica occhiata farsa che dovrebbe significare scusa un momento, torno subito, ma invece vuol dire stati buono tu brutto bestione che ho delle cose importanti da fare con questo prezioso gingillo ultrapiatto leggero, dotato di monitor a colore, di 2 terabyte di memoria, di 44 suonerie a scelta, di un'agenda personalizzata con 87.000 nomi, della possibilità di ricevere messaggi fino a 10.000 parole con disegni e fotografie, e last but not least di un programma per investire direttamente in borsa senza passare dal via. E io sono lì imbarazzatissimo, perché quella conversazione, che mi sforzo per discrezione di non ascoltare, ma l'ascolto lo stesso e mi sembra anche piuttosto cretina, ha interrotto il dialogo quale che fosse che fino un momento prima ci legava, anzi mi ha messo in un certo senso tra parentesi, mi ha messo a disposizione di quell'altro. È una cosa che chissà perché non mi entusiasma affatto, e in ogni caso io so che quella telefonata, con la conversazione giustificatoria che l'ha preceduta, rappresenta in realtà una manifestazione rituale. È una cerimonia promossa per sancire ai miei occhi, agli occhi di un qualcun altro, l'avvenuta promozione esistenziale dell'interlocutore, che è passato dalla categoria degli esclusi al novero degli eletti e in via assolutamente definitiva. Tanto è vero che da quel momento in poi del fatto che quell'oggetto sia un regalo o il portato di una qualche necessità non si parlerà più, e io saprò che per scambiare lazzi e battute su chi è tanto stolto da dipendere dal suo cellulare dovrò rivolgermi a qualcun altro. Che è un'impresa sempre più difficile. Io leggo sui giornali che il telefonino è presente tra noi da ben 10 anni, a me sembravano meno, ma... e che se ne avvalgono oltre 25 milioni di utenti, poco meno di un italiano su 2, anche se suppongo che nell'area urbana in cui ci muoviamo la percentuale sia superiore. Sono cifre che possono stupire, per quanto mi riguarda non cessano mai di stupirmi, ma di fronte a cui non si discute. Se come qualsiasi prassi sociale l'uso del telefonino ha un suo preciso valore di scelta ideologica, deve trattarsi di un'ideologia di massa, molto più massiccia di quelle di cui fino a qualche anno fa si annunciava drammaticamente la crisi. Stando così le cose, forse ora di smettere di considerare gli addetti del telefonino come dei minus abentes e come dei poveri nevrotici angosciati dall'idea che qualcuno non possa mettersi in contatto immediato con loro e viceversa. Sì, è vero. Umberto Galimberti ha scritto su Repubblica di domenica scorsa che per loro il telefono è la spina che li tiene legati al mondo e che così perdono il mondo circostante e soprattutto il mondo interiore, che non sanno più cos'è il silenzio e cos'è l'attesa, che non hanno più rispetto dell'atmosfera e che il loro presenzialismo al mondo esterno non concede all'interlocutore alcun privilegio. Ma queste sono cose da filosofi. I 25 milioni di proprietari di telefoni mobili sono 25 milioni di cittadini che prendono quello che il mercato offre loro. E perché dovrebbero privarsi di un manufatto di cui gli altri liberamente dispongono? E non sono né trogloditi né pezzenti. Sono figli del loro tempo. Se la tecnologia corrente offre il telefonino lo vogliono anche loro. Si potrebbero fare delle obiezioni, volendo. Si potrebbe obiettare che quel manufatto con le complesse strutture di sostegno che sottintende è un tipico esempio di prodotto inutile, è l'estrinsecazione di una tecnologia affatto superflua, nel senso che, fatte salve le speciali esigenze di pochi, la telefonia fissa basta ad abundanziam per soddisfare le necessità di comunicazioni orarie a distanza e che tutti i quattrini investiti sullo sviluppo a oltranza dei sistemi portatili possono essere considerati buttati al vento, sottratti a ben altre necessità sociali. Si potrebbe obiettare che il bisogno di acquistare quell'oggetto, per quanto diffuso, è comunque dovuto in gran parte al bisogno che gli altri hanno di venderlo, che si tratta cioè di un tipico bisogno indotto, il cui soddisfacimento determina una perdita, non un aumento della libertà di chi lo realizza. Si potrebbe persino tracciare, volendo, un parallelo, un suggestivo ancorché impreciso, con il mercato della droga e le sue tecniche di funzionamento. Ma chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa fare, amici miei? Sappiamo tutti che oggi non si investe in nome delle necessità sociali, che si investe solo in nome della remunerativa dell'investimento. E da questo punto di vista nessuno può negare che investire in telefonini sia stata una scelta molto oculata. E sul breve periodo chi si compra il telefonino giova senz'altro, non a se stesso forse, ma al sistema economico vigente senza dubbio. E le preoccupazioni sul lungo periodo lasciamole pure ai vecchi barbogi, come diceva il poeta. Di fronte alle esigenze del mercato non si può che chinare la testa. La prossima volta che vedrete un amico esibire incerto d'orgoglio e vergogna il suo nuovo telefonino, non prendetevela e abbiate semplicemente compassione di lui. La sua esibizione non è un rito di passaggio, è un rituale di resa.